Capitolo 5. L'arrivo a casa. Il dottor David Blythe li aveva mandati a prendere con il carrozzino e il ragazzetto che l'aveva guidato fin lì sparì, con un sorriso di circostanza, lasciandoli alla felicità di un viaggio a due nella radiosa serata. Anna non si dimenticò mai la bellezza del panorama che si aprì ai loro occhi sulla sommità della collina alle spalle del paese. La sua nuova casa non si vedeva ancora, ma davanti a lei si distendeva la baia di Four Winds, simile a un grande specchio lucente rosa e argento. In lontananza scorse l'accesso alla baia, racchiuso tra la barra di dune sabbiose e una scoscesa e imponente scogliera di arenaria rossa. Oltre la barra, il mare, calmo e austero, sognava sotto la luce calante. Il piccolo paese di pescatori, annidato nella cala, là dove le dune di sabbia si univano al litorale della baia, spiccava come un grande opale nella foschia. In alto, il cielo era una coppa incastonata di gemme da cui scendeva il crepuscolo. L'aria era carica dell'odore pungente del mare e tutto il paesaggio era permeato della nota suggestiva di una serata marina. Qualche vela, poco più di una sagoma sfocata, costeggiava il litorale ormai nero della baia. Dal campanile di una lontana chiesetta bianca giungeva il rintocco di una campana. Il suo dolce timbro incantato riecheggiava sulla superficie dell'acqua, fondendosi con il gemito del mare. Il grande faro girevole all'ingresso della baia gettava la sua calda luce dorata sul cielo sereno a settentrione, simile a un'ammiccante stella di buon auspicio. All'orizzonte si distendeva il nastro grigio spiegazzato della scia di un vapore. «Oh, bello, bello!» mormorò Anna. «Adoro già Four Winds, Gilbert!» «Dov'è la nostra casa?» «Non si vede ancora. La nasconde il filare di betulle che sale dalla cala. È a circa 2 miglia da Glen St. Mary e a 1 miglio dal faro. Non avremo molti vicini, Anna. C'è solo una casa vicino alla nostra e non so chi ci vive. Ti sentirai sola quando io non ci sarò, non in compagnia di questa luce e di questo splendore. Chi vive in quella casa, Gilbert? Non so, ma a quanto sembra non deve ospitare anime gemelle sotto il suo tetto, non credi, Anna? La casa era una costruzione grande e solida, di un verde tanto brillante da rendere quasi scialbo il paesaggio circostante. Aveva un frutteto sul retro e un prato ben tenuto sul davanti, però l'effetto generale non era gradevole. Forse la causa andava ricercata nel perfetto stato di manutenzione. Tutta la proprietà, casa, stalle, frutteto, giardino, prato e viale, mostrava un ordine ineccepibile. «Non mi sembra probabile trovare un'anima gemella in chi predilige certe tinte», ammise Anna, «a meno che non si tratti di un incidente, come il nostro circolo dipinto di azzurro, ricordi? Comunque sono certa che non ci sono bambini. È ancora più perfetta della casa dei Cop nella strada dei conservatori. E dire che credevo che fosse il massimo». Non avevano incontrato nessuno sull'umida strada rossa che si snodava lungo il litorale della baia, ma un attimo prima di giungere al cerchio di betulle che cingeva la nuova casa, Anna vide alla sua destra, sul crinale di una collina ammantata di verde, un gruppo di oche bianchissime guidate da una ragazza. Tra i grandi tronchi degli abeti radi si intravedevano scorci di biondi campi di grano, di dorate dune di sabbia e di mare azzurro. La ragazza era alta e indossava un semplice abito celeste, aveva passo elastico e portamento eretto. Giunse con le oche al cancello in fondo alla collina, proprio al passaggio di Anna e Gilbert. Fermò la mano sul saliscendi e li osservò con un'espressione che non arrivava al grado dell'interesse, ma non scendeva a quello della curiosità. Per un attimo Anna vi scorse persino una nota mascherata di ostilità. Ma fu la bellezza della ragazza che lasciò Anna senza fiato. Era una bellezza tanto evidente da non poter passare inosservata. Non portava cappello e le folte trecce di capelli bruniti del colore del grano maturo erano avvolte attorno al capo come un diadema. Gli occhi azzurri splendevano come stelle. La figura, nell'abito semplice, era superba. Le labbra rosse, come il mazzo dei papaveri che portava alla cintola. Gilbert, chi è la ragazza che abbiamo visto? Chiese Anna sottovoce. Io non ho notato nessuna ragazza, disse Gilbert, che aveva occhi solo per la sposina. Era davanti a quel cancello. No, non voltarti, sta ancora guardandoci. Un viso così bello non l'avevo mai visto prima. Non ricordo di aver visto ragazze particolarmente belle quando sono stato qui. Qualche ragazza graziosa, Glenn, c'è, ma non credo che si potrebbe definire bella. Oh, ma questa lo è. Non l'hai vista, altrimenti la ricorderesti. È impossibile dimenticarla. Volti simili si vedono solo nei quadri. E i capelli. Mi hanno rammentato i fili d'oro e le sontuose serpi di Browning. Probabilmente non è di Four Winds e alloggia al Grand Hotel della Baia. Beh, indossava un grembiule bianco e guidava le oche al pascolo. Può essere un modo per divertirsi. Guarda, Anna, ecco la nostra casa. Anna guardò e per il momento dimenticò la ragazza con gli splendidi occhi dall'espressione risentita. La prima visione della sua nuova casa fu una delizia per l'occhio e per lo spirito. Sembrava in tutto e per tutto una grande conchiglia bianca all'asciutto sulla spiaggia della baia. I due filari di alti pioppi che correvano lungo il viale si ergevano maestosi e violetti contro il fondale del cielo. Sul retro c'era un fitto boschetto di abeti, riparo per il giardino dal soffio pungente dei venti marini, che intonavano tra i rami magiche melodie aeree. Come tutti i boschi, sembrava custodire e racchiudere nei suoi recessi meravigliosi segreti che solo una paziente ricerca può portare alla luce. All'esterno, scure braccia verdi li difendono da occhi curiosi o indifferenti. Quando Anna e Gilbert imboccarono il viale dei pioppi, i venti serali stavano iniziando la loro frenetica danza al di là della barra e il villaggio di pescatori all'altro capo della baia andava accendendosi di luci. La porta della casetta si aprì e la luce calda del focolare guizzò nella semioscurità. Gilbert smontò dal carrozzino, prese Anna tra le braccia e la fece scendere, poi la condusse nel giardino, la scortò al di là del cancello posto tra due abeti rossi e lungo l'ordinato vialetto rosso che conduceva alla soglia di Arenaria. «Benvenuta a casa», sussurrò, e mano nella mano varcarono la soglia della casa dei sogni. Capitolo 6. Il capitano Jim. Il vecchio dottor Dave, come veniva chiamato in paese, era venuto con la moglie per dare il benvenuto agli sposi nella nuova casa. Il dottor Dave era un uomo vecchio, robusto e cordiale, con lunghe basette bianche. La moglie, una donna minuta, con le guance rosee e i capelli argentei, dimostrò subito un grande affetto per Anna. «Sono tanto contenta di conoscerti, mia cara. Devi essere molto stanca. Abbiamo preparato qualcosa per cena e il capitano Jim ha portato delle trote. Capitano Jim! Ma dov'è? Deve essere andato a badare al cavallo. Vieni sopra a cambiarti, cara». Mentre saliva le scale con la moglie del dottore, Anna si guardò attentamente attorno. Era soddisfatta della sua nuova casa. Aveva qualcosa dell'atmosfera di Green Gables e delle tradizioni che la permeavano. «Credo che avrei trovato un'anima gemella nella signorina Elizabeth Russell», mormorò quando fu da sola in camera. «C'erano due finestre. Una dominava l'estremità della baia, con la barra di sabbia e il faro di Four Winds, un magico balcone aperto sulla spuma di mari perigliosi in favolose terre», citò Anna sommessamente. La finestra più piccola si affacciava su una valletta di grano dorato attraversata da un ruscello. A circa mezzo miglio c'era l'unica casa dei dintorni, una vecchia ed estesa costruzione grigia circondata da enormi salici. Le finestre ammiccavano tra i rami simili a timidi occhi scrutatori. Anna si chiese chi vi abitasse. Erano i vicini più prossimi e sperava che fossero simpatici. A un tratto si trovò a pensare alla bella ragazza con le oche bianche. «Gilbert dice che non è di qui», riflette Anna, «ma secondo me sbaglia. C'era in lei qualcosa che la accomunava al mare, al cielo e alla baia. Ha Four Winds nel sangue, si vede». Quando Anna scese, Gilbert era in piedi davanti al caminetto e parlava con uno sconosciuto. All'entrare di Anna si voltarono tutti e due. Anna Questo è il capitano Boyd. Capitano Boyd, questa è mia moglie. Era la prima volta che Gilbert la chiamava così, in pubblico, e ne era tanto orgoglioso da non stare più nella pelle. Il vecchio capitano tese ad Anna una mano magra e forte. Si sorrisero e furono subito amici. Scattò tra loro una mutua corrispondenza di simpatia. Sono onorato di conoscerla, Madame Blythe, e spero che lei sia felice come la prima sposa che ha vissuto in questa casa. Non saprei cosa augurarle di meglio. Ma suo marito non mi ha presentato correttamente. Sono conosciuto come Capitano Jim e tanto vale che lei incominci subito a chiamarmi così. Oh, lei è davvero una bella sposa, Madame Blythe. Solo guardarla mi fa sentire fresco di nozze. Tra le risate che seguirono, la moglie del dottor Dave invitò il capitano a fermarsi a cena. Oh, grazie molte. Sarà un vero avvenimento per me. Di solito pranzo in compagnia del riflesso della mia bella faccia nello specchio. Non mi capita spesso l'occasione di sedere tra due signore tanto belle e gentili. I complimenti del capitano Jim potranno sembrare arditi sulla carta, ma il tono di sincero rispetto con cui li porgeva li rendeva graditi come omaggi a una regina. Il capitano Jim era un vecchio di animo nobile e modi semplici, con l'eterna gioventù negli occhi e nel cuore. Aveva una figura alta, dinocolata e un po' curva, indice di forza e resistenza. Un volto ben rasato, abbronzato e solcato da profonde rughe, folti capelli grigio ferro che gli arrivavano quasi sulle spalle e un paio di straordinari occhi infossati che ora ammiccavano, ora sognavano e ora si appuntavano sul mare con un'espressione inquieta, come di chi ricerchi un prezioso bene perduto. Anna un giorno avrebbe saputo che cosa cercava il capitano Jim. Non si poteva negare che il capitano fosse piuttosto brutto. Il viso scarno, la bocca irregolare e la fronte massiccia non costituivano un insieme di armonica bellezza e le traversie e i dolori della sua esistenza avevano segnato il corpo nonché l'animo. A prima vista Anna lo giudicò brutto, ma poi non ci fece più caso. La luce spirituale che illuminava il fisico malconcio abbelliva tutta la persona. Si riunirono serenamente attorno al tavolo. Il fuoco del camino mitigava l'aria fredda della sera di settembre, ma la finestra della sala da pranzo era aperta e le brezze di mare entravano gradite. Il panorama era superbo e racchiudeva la baia con la corona di basse colline violette. La tavola era carica di manicaretti preparati dalla moglie del vecchio dottore, ma la pièce de résistance era senza dubbio il grande piatto di portata con le trote salmonate portate dal capitano. Ho pensato che magari vi facevano piacere dopo il viaggio, disse il capitano Jim. Sono freschissime, signora Blythe. 2 ore fa nuotavano ancora nel laghetto di Glen. Chi pensa al faro stasera, capitano Jim? Chiese il dottor Dave. Mio nipote, Alec, lo conosce bene come me. Beh, sono contentissimo di questo invito a cena. Ho una gran fame. Oggi non ho fatto poi un gran pranzo. Secondo me lei non mangia a sufficienza al faro, disse severamente la moglie del dottor Dave. Non si preoccupa nemmeno di preparare un vero e proprio pasto. Ma no, ribatté il capo Jim. Me la passo da re, invece. Ieri sera sono stato a Glen e ho portato a casa 2 libbre di carne da bistecca. Volevo farmi un pranzo con i fiocchi oggi. E che ne è stato di quella carne? Chiese la moglie del dottor Dave. L'ha persa per strada? No, disse il capitano Jim con aria contrita. Stavo per andare a dormire quando si è presentato un povero cane sperso che mi ha chiesto asilo per la notte. Doveva essere di qualche pescatore della costa. Non potevo scacciare quella povera bestia. Aveva una ferita alla zampa, così l'ho lasciato nel portico con un sacco per cuccia e sono andato a letto, ma non riuscivo a dormire. Poi, più ci pensavo e più mi ricordavo che il cane aveva l'aria di aver fame. Così si è alzato e gli ha dato la carne, tutta, disse la moglie del vecchio dottore. Con un tono di rimprovero che non nascondeva il trionfo per la conferma delle proprie ipotesi. Beh, non c'era altro da dargli, disse umilmente il capitano Jim, o almeno niente che potesse piacere a un cane, che aveva fame, davvero, perché ha mangiato tutto in 2 bocconi. Ho dormito benissimo per il resto della notte, ma poi a tavola ho dovuto accontentarmi, patate, punto e basta, come si dice. Il cane poi questa mattina se n'è tornato a casa sua, di certo però non era vegetariano. E così lei ha saltato il pasto per un cane da niente, disse in tono di disapprovazione la moglie del vecchio dottore. Chi lo sa se per qualcuno valeva molto, invece, controbatté il capitano Jim. Non aveva l'aria di essere granché, ma i cani non si possono giudicare dall'aspetto. Come me, magari aveva una sua bellezza nascosta. Il secondo non l'ha visto tanto di buon occhio, lo ammetto, l'ha fatto capire a chiare lettere. Ma il secondo è pieno di pregiudizi. È inutile chiedere a un gatto l'opinione su un cane. Comunque, il pranzo è andato in fumo e quella bella trota imbandita in compagnia di gente simpatica, per me è una vera festa. Gran cosa, avere dei buoni vicini. Chi vive nella casa tra i salici vicino al ruscello? Chiese Anna. La signora Dick Moore, disse il capitano Jim, e il marito, aggiunse dopo un attimo di riflessione. Anna sorrise e dal tono del capitano Jim si formò un'immagine mentale della signora Dick Moore. Era evidentemente una seconda Rachel Lynde. Non avete molti vicini, Madama Blythe, continuò il capitano Jim. Questa parte della baia è poco popolata. Quasi tutta la terra è del signor Howard al di qua di Glen e la affitta come pascolo. L'altra parte della baia invece è piena di gente, specialmente di McAllister. C'è tutta una tribù di McAllister. Se ne incontra uno a ogni piè sospinto. Stavo giusto parlando al vecchio Leon Blackair l'altro giorno. Ha lavorato in porto tutta l'estate. Sono quasi tutti McAllister laggiù, mi ha detto. C'è Neil McAllister e Sandy McAllister e William McAllister e Alec McAllister e Angus McAllister. E scommetto che c'è anche Diavolo McAllister. Ma ci sono anche un mucchio di Elliot e di Crawford, disse il dottor Dave quando si fu spenta l'eco delle risate. Sai, Gilbert, noi di questa parte di Four Winds abbiamo un vecchio adagio. Dalla presunzione degli Elliot, dall'orgoglio dei McAllister e dalla vanagloria dei Crawford, liberaci, o Signore. Però c'è della gente, come si deve, anche tra di loro, disse il capitano Jim. Ho navigato per anni con William Crawford e quanto a coraggio, resistenza e lealtà, quell'uomo non aveva uguali. Adesso li in zucca la gente di quella parte di Four Winds. Forse è per questo che quelli di qua tendono a criticarla. È strano come tutti si seccano se qualcuno nasce appena più intelligente di loro, vero? Il dottor Dave, che aveva da 40 anni un conto aperto con la gente dell'altra parte della baia, rise e si calmò. Chi vive in quella casa verde smeraldo a mezzo miglio dalla stazione? Chiese Gilbert. Il capitano Jim sorrise soddisfatto. La signorina Cornelia Bryant. Probabilmente verrà presto a trovarvi, dato che siete presbiteriani. Se foste metodisti non verrebbe affatto. Cornelia ha orrore dei metodisti. È un tipo originale, disse il dottor Dave con un risolino. Nemica giurata degli uomini. Sarà la storia della volpe con l'uva? Chiese Gilbert, ridendo. Niente affatto, rispose serio il capitano Jim. Da giovane le occasioni non le sono mancate e ancora adesso le basterebbe dire sì per avere ai piedi tutti i vedovi del paese. Cornelia è nata con una specie di odio cronico per gli uomini e i metodisti, la lingua più tagliente e l'animo più generoso di Four Winds. Dove c'è bisogno di aiuto arriva, pronta a farsi in quattro. Non sparla mai di un'altra donna. In compenso gli uomini li critica sempre, ma noi abbiamo la pelle dura. Di lei parla sempre bene, capitano Jim, disse la moglie del vecchio dottore. Sì, lo so, e la cosa non mi fa piacere. Mi sembra di essere anormale.